Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Simone Spoladori. Nella storia recente dello spettacolo e dello sport esistono personaggi in grado di catalizzare così tanto l'attenzione dell'opinione pubblica da diventare dei simboli, entrando così a far parte di una sorta di mitologia popolare che ha talvolta un sapore quasi religioso. È la religione delle icone pop. La storia che vi raccontiamo oggi ha a che fare proprio con una delle più controverse e amate icone pop degli anni 60. Un mito, una leggenda, uno dei tanti simboli della trasgressione, dell'eccesso, della vita spinta al massimo e goduta fino all'ultimo istante. E che ha a che fare col destino, che a volte può essere tremendo e spietato, ma che spesso offre l'occasione per spettacolari e intense rivincite. Una storia che riguarda lo sport, il calcio in particolare. Iniziamo a raccontarvela a partire da una data. 29 maggio 1968. Wembley Stadium, Londra. Si gioca la finale di Coppa dei Campioni. Manchester United contro Benfica. Wembley nel 1968 è uno degli stadi più famosi del mondo. Pensate che oggi non esiste più, è stato demolito e ricostruito da cima a fondo. Oggi a Destini Incrociati siamo in mezzo ai 92.000 tifosi che il 29 maggio 1968 affollano lo stadio londinese. C'è in palio il titolo di campione d'Europa per club. I bookmakers anglosassoni danno il Manchester come favorito, ma prevedono grande equilibrio. Gli inglesi dovranno vedersela con un grande campione, una leggenda del calcio, il mitico Eusebio. Era la mia quarta finale di Coppa dei Campioni, tutte giocate con il Benfica. Ero riuscito a vincere solo nel 1962 contro il Real Madrid e avevo perso le due successive contro Milan e Inter. Quella contro il Manchester, sapevo, sarebbe stata una partita dura e difficile. E sapevo che per diversi motivi comunque fosse andata, sarebbe passata alla storia. I motivi di cui parla Eusebio ci permettono di avvicinarci al nostro incrocio di destini di oggi. È la storia di un sodalizio tra due uomini, le cui vicende vivono di risvolti epici e talvolta anche tragici. Il primo di questi siede sulla panchina del Manchester United ed è un pezzo di storia del club inglese. Si tratta di Sir Matt Busby. Matt Busby. Il Manchester United oggi è una delle squadre più titolate al mondo e con il maggior numero di tifosi sparsi per il pianeta. Si è aggiudicato infatti 18 titoli nazionali, 11 Coppe d'Inghilterra, 3 Coppe dei Campioni, una Coppa delle Coppe, una Coppa UEFA e 2 titoli mondiali per club. La maggior parte di questi titoli sono stati conquistati nel corso di 2 lunghissimi cicli di vittorie, rappresentati dagli allenatori che hanno gestito la squadra nel corso di essi. Il più noto di questi cicli è indubbiamente quello ancora in corso sotto l'egida del grande Alex Ferguson. La prima di queste ampie fasce vittoriose risale agli anni 50, abbastanza tardi se si pensa che il club è stato fondato addirittura nel 1887. L'artefice di questo primo ciclo di vittorie è proprio Matt Busby. Scopriamo insieme chi è. Belchill è un piccolo villaggio rurale nel sud della Scozia. Qui all'inizio del secolo ci sono solo 32 cottage, per lo più abitati da agricoltori e minatori. E qui, da una coppia di umili contadini, il 26 maggio del 1909, che nasce Matt Busby, un uomo destinato a diventare una delle figure più vincenti del calcio inglese. Belchill era veramente un posto fuori dal mondo, isolato, ma a suo modo affascinante. Era un nucleo chiuso, si vivevano solo i problemi che riguardavano i campi e le miniere. Quella condotta dalla mia famiglia era una vita dura, molto dura, fatta di sacrifici e sofferenze. I sacrifici e la sofferenza sono nel DNA di Matt Busby, il maggiore di 4 fratelli. Quando ha solo 8 anni, la tragedia della Prima Guerra Mondiale si porta via il padre e 3 zii che perdono la vita nella sanguinosa battaglia della Somme. Matt impara a convivere col dolore. Come molti dei bambini di quella comunità rurale, Matt sogna di fare il calciatore, mentre il padre prevede per lui un più concreto futuro nelle miniere di carbone. Quando il genitore muore in guerra, la signora Busby, la madre, fa domanda per emigrare negli Stati Uniti, gettando i presupposti per il definitivo dissolvimento dei sogni calcistici del figlio. Ma il talento, questa volta, riesce ad avere la meglio su qualsiasi piano. Avevo 16 anni, lavoravo a tempo pieno come minatore e di sera avevo iniziato a giocare nella squadra dilettantistica del Danny Hibbs. Proprio in quel periodo mi notarono gli osservatori del Manchester City, che militava nella Serie B inglese, e mi prelevarono con un contratto che prevedeva una forte buonuscita nel caso in cui fossi emigrato negli Stati Uniti. Visto il colpo di fortuna, però, mia madre decise di non emigrare per permettermi di iniziare la carriera di calciatore. Manchester è subito nel suo destino. La prima squadra in cui il giovane esordisce è il City, in cui Matt mette subito in luce il proprio talento. All'epoca il Manchester City lotta per la promozione nella massima divisione inglese e con 12 presenze e 5 gol, Matt Busby dà il suo contributo. È l'inizio di una folgorante prima parte di carriera, 226 presenze, 14 gol, 7 anni ad alto livello, in cui Matt diventa uno dei più importanti giocatori inglesi. Nel 1936 il trasferimento decisivo a Liverpool. Il 14 marzo 1936 Matt Busby fa il suo debutto con la maglia del Liverpool. Sono 4 anni straordinari quelli con i Reds. La casacca con il numero 4 diventa il simbolo della sua tenacia, della sua forza, della sua classe. Soprattutto, però, in Matt Busby sono evidentissimi i cromosomi del leader e l'intelligenza tattica. A Liverpool diventa infatti una sorta di secondo allenatore in campo. Si comprende che al termine della carriera da calciatore la sua strada sarà quella di allenatore. Un cambiamento che arriva molto prima del previsto per Busby. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. Il celebre discorso di Winston Churchill, primo ministro britannico, pronunciato il 4 giugno 1940, segna l'inizio della battaglia d'Inghilterra. I britannici sono chiamati alle armi contro la possibile invasione nazista. Matt Busby, come molti calciatori del Regno Unito, si arruola ed entra nell'esercito. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Matt Busby gioca qualche match non ufficiale per la nazionale scozzese, ma soprattutto inizia la sua carriera di allenatore nella selezione militare britannica. Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command. Quello che sentite è l'annuncio della fine della guerra contro la Germania che Winston Churchill dà alla radio il giorno 8 maggio 1945. L'Inghilterra può lentamente tornare a respirare e a vivere, come tutta l'Europa e tutto il mondo. Anche il calcio può ritrovare la sua normalità e la sua routine. La prima offerta di lavoro come allenatore viene avanzata a Busby da Liverpool, ma l'ex centrocampista dei Reds rifiuta per non meglio precisati disaccordi con la dirigenza. Poco dopo arriva l'offerta del Manchester United. La leggenda vuole che Matt Busby si sia recato al colloquio con il presidente dello United vestito in uniforme militare. Non ha nulla di favolistico, ma è semplicemente storia il contenuto di quel colloquio. Matt Busby ha in mente per sé un ruolo rivoluzionario per il calcio mondiale, non più solo coach, bensì manager. Non vuole, insomma, allenare soltanto i giocatori. Vuole decidere chi vendere e chi comprare, entrare nelle questioni economiche, dirigere in prima persona l'intero staff tecnico della squadra. Un ruolo innovativo e moderno, insomma, che viene sancito da un contratto triennale. Inizia uno dei cicli più importanti della storia del calcio mondiale. In effetti in quel momento andavo ad assumere un ruolo piuttosto inedito per il calcio. Ma io ritengo sia davvero l'unico modo in cui un allenatore possa realmente incidere sui risultati di una squadra. Penso che i successi partano da lontano, dalla cura scrupolosa per ogni dettaglio. La prima era Busby dura 10 anni, dal 1948 al 1958. L'inizio è subito folgorante. La squadra colleziona ben 4 secondi posti consecutivi nella massima serie del campionato e porta a casa 2 Coppe d'Inghilterra. Accanto a Busby c'è Jimmy Murphy, un giovane allenatore in seconda che Matt aveva visto all'opera con una selezione militare in Italia. Nel 1953 la squadra ha bisogno di essere rinnovata. Busby e Murphy riescono a portare a casa i migliori giovani in circolazione, ringiovanendo il team. Nascono i cosiddetti Busby Babies, Billy Folkies, Jackie Blanche Flower, Liam Whelan e soprattutto Duncan Edwards. Duncan Edwards era probabilmente il miglior calciatore britannico di tutti i tempi. Noi lo lanciammo nella United, poi esordì in nazionale addirittura a soli 18 anni. Era un giocatore straordinario. Duncan Edwards, una leggenda del calcio. Centrocampista difensivo dalla forza fisica incredibile e dalla personalità eccezionale, soprattutto data dalla giovane età, era stato paragonato in maniera sicuramente bizzarra dall'ex calciatore inglese Stanley Matthews alla Rocca di Gibilterra. Elegante nei movimenti, testa alta, intelligenza tattica ineccepibile, Edwards, in mezzo al campo, gioca con il piglio del dominatore e contribuisce ai grandi successi del Manchester. Per lo United arrivano 2 titoli nazionali, nel 56 e nel 57. Nel 57 viene raggiunta anche la semifinale della Coppa dei Campioni, che diventa l'obiettivo primario di Matt Busby. Nel 58 la squadra inglese, condotta da Duncan Edwards in campo e da Matt Busby in panchina, parte come favorita per la vittoria in Coppa dei Campioni. Era una squadra perfetta per le competizioni europee, completa in ogni reparto. Inoltre avevamo acquistato 2 giocatori fenomenali per rafforzare la difesa e l'attacco. Il portiere Harry Gregg e il centravanti Tony Taylor. Ero convinto che niente ci avrebbe fermato. In effetti il cammino europeo dei Red Devils sembra inarrestabile. Dopo la pausa invernale, nel febbraio del 1958, per i Red Devils arriva il momento dei quarti di finale. Avversario, la Stella Rossa di Belgrado. L'andata dei quarti di finale contro la Stella Rossa si conclude con il risultato di 2-1. Duncan Edwards gioca una splendida partita che alimenta voci sempre più insistenti su un suo possibile trasferimento in Italia l'anno successivo. Matt Busby vede a un passo il traguardo della finale. Il 5 febbraio 1958 a Belgrado si disputa il ritorno dei quarti di finale. Finisce 3-3. Il Manchester passa il turno. 6 febbraio 1958. Sembra un giorno come altri. Non lo è. Il Manchester in aereo deve fare ritorno in patria e giovedì e sabato deve giocare in campionato, per cui è necessario spostarsi in aereo. Il velivolo con i Busby Babies decolla da Belgrado alle 10 del mattino. L'aereo è un Elizabethan, rinominato Airspeed Ambassador, che può trasportare fino a 60 passeggeri e ha 2 motori per ala. Dopo 2 ore fa scalo all'aeroporto Riem di Monaco di Baviera per fare rifornimento. Una formalità se nel frattempo non fosse cominciato a nevicare. 1 ora più tardi l'aereo tenta il decollo pur sotto una nevicata violenta. Il primo tentativo va a vuoto. Il velivolo non riesce a raggiungere la velocità necessaria. Il secondo anche. Il capitano della British Airways, James Thain, tenta un 3° decollo. L'aereo raggiunge la velocità giusta, ma subito dopo impatta con un cumulo di neve ghiacciata lasciata sulla pista. L'apparecchio perde velocità, perde quota, urta violentemente una recinzione e termina la sua tragica corsa contro una casa disabitata per poi prendere fuoco. A bordo, compresi i 6 membri dell'equipaggio, ci sono 44 persone. Muoiono in 21. Sette giocatori periscono sul colpo. Il capitano Roger Byrne, titolare in nazionale da 4 anni. Il centravanti Tommy Taylor. Il giovanissimo mediano Eddie Coleman, a 21 anni già tra i più rinomati d'Europa nel suo ruolo. L'ala sinistra anche della nazionale David Pegg. Bill Whelan, cervello offensivo della nazionale irlandese. Il gigantesco stopper Mark Jones. Il terzino di riserva Geoff Bent. Oltre ai giocatori muoiono l'allenatore Tom Curry, il preparatore fisico Bert Woolley e il segretario Walter Krickmer, nonché i giornalisti Archie Ledbrook del Daily Mirror e Frank Swift, l'ex grande portiere del Manchester e della nazionale inglese, diventato cronista dopo aver abbandonato il calcio. Duncan Edwards sopravvive allo schianto, ma riporta ferite gravissime che lo lasciano sospeso tra la vita e la morte. Il campione, neanche 21enne, si spegne 2 settimane dopo, il 21 febbraio 1958. Matt Busby, il creatore di quella giovane squadra lanciata verso i vertici, i Busby Babies, rimane gravemente ferito, ma dopo alcune settimane viene dichiarato fuori pericolo. È costretto a molti mesi di degenze in ospedale prima di poter riprendere il ruolo di grande manager del Manchester United. Nel frattempo, però, il suo sogno è distrutto. Oltre allo strazio per molte giovani vite distrutte, il calcio inglese perde una delle sue squadre più forti. Matt Busby, però, ex minatore, sa cosa sono il dolore e la sofferenza e sa bene cosa significhi stringere i denti e lottare. Anche per omaggiare quei giovani che insieme a lui tentavano di inseguire il sogno della Coppa dei Campioni, decide di ripartire, di rilanciare e di fare l'impossibile per raggiungere quel traguardo. Il destino, che l'ha fatto sopravvivere a quel tragico schianto, gli permetterà di raggiungere il suo sogno solo grazie all'incontro con un giovane genio che Busby avrà il merito di lanciare. Un altro genio, in bilico tra successo e tragedia. Un incontro che scopriremo tra poco, a Destini Incrociati. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati siamo partiti da una finale di Coppa dei Campioni, 29 maggio 1968, Londra. Si affrontano il Manchester United e il Benfica. I Red Devils sono arrivati a questa storica finale 10 anni dopo la sconvolgente tragedia di Monaco di Baviera, il disastro aereo che aveva coinvolto il velivolo su cui la squadra inglese stava facendo ritorno in patria dopo una partita di Coppa dei Campioni e in cui avevano perso la vita alcuni dei giocatori più importanti del team. Manager del club, allora come nel 1968, è Sir Matt Busby, un pezzo di storia del calcio europeo. È sopravvissuto al terribile incidente, anche se gravemente ferito, e si è ripromesso di vincere la Coppa dei Campioni per saldare il conto con il destino e dedicarla ai suoi ragazzi scomparsi. Per arrivare fin qui, però, Matt Busby si è affidato al talento di uno dei più grandi campioni della storia del calcio. Una giovane ala tutta dribbling e fantasia, che lui stesso ha scoperto e lanciato e che ora lo sta per ripagare portandolo sul tetto d'Europa. Un ragazzo che ha il suo destino stampato nel cognome. George Best. George Best. Ci sono uomini nello sport come nell'arte che riescono a completare il talento con la disciplina, a imbrigliarlo, in parte a controllarlo. Ce ne sono altri però che ne hanno talmente tanto di talento da rimanerne schiacciati, succubi. Totalmente fuori controllo sono questi uomini però a poter aspirare alla definizione di genio assoluto. Perché genialità è anche imprevedibilità, sregolatezza, irregolarità. George Best era un genio assoluto. La sua carriera è stata breve, troppo breve, bruciata in un attimo fugace e inafferrabile. Ad accenderne la scintilla è stato proprio Matt Busby, forse l'unico in grado di gestire il temperamento ingovernabile di questo campione assoluto. Ball in the sun, but it was Best who picked up that kid flick. Driven wide. George Best nasce a Belfast, nell'Irlanda del Nord, il 22 maggio 1946. La sua è una famiglia molto povera, che vive nel misero quartiere di Creagh, A scuola George non è certo un fenomeno, anche se si fa apprezzare per l'intelligenza vivace e per la curiosità. Non ha però l'ambiente familiare più adatto a sostenerne gli studi, dato che sua madre ha grandissimi problemi con l'alcol. In ogni caso, George sembra eccellere negli sport. È rapido, veloce, ma estremamente gracile. Questo gli crea qualche difficoltà nel rugby, che abbandona presto, per ripiegare definitivamente sul football. Nel 1961 George Best ha 15 anni. Gioca per una squadra del suo quartiere a Belfast. È talmente forte, però, da essere schierato coi ragazzi di 3 anni più grandi di lui. Eppure li salta come fossero paletti di uno slalom. Trascina la sua piccola squadra nella finale di un torneo giovanile nazionale. Alla partita viene a dare un'occhiata all'osservatore del Manchester United, Bob Bishop. Dopo aver visto Best segnare 3 gol a una compagine formata da 18enni, invia a Busby un telegramma. Penso di averti trovato un genio. Stop. Ti prego, invia quel capo degli osservatori, Joe Armstrong. Stop. Matt Busby legge il telegramma e agisce immediatamente. Armstrong raggiunge istantaneamente Belfast, parla col giovane e con la sua famiglia. Una settimana dopo, George Best è a Manchester, all'Old Trafford, nello stadio che diventerà il suo tempio. Tra Best e Busby si instaura subito un feeling eccezionale, un rapporto quasi padre-figlio. Ciononostante, il giovane talento irlandese vive in maniera traumatica il primo impatto col calcio inglese e con il palcoscenico del calcio professionistico. Dopo solo una decina di giorni di allenamenti, prende il primo traghetto e torna a Belfast, dalla sua famiglia. Era molto spaventato, sentiva nostalgia di casa. Era un ragazzo fragile e sensibile, dal carattere estremamente delicato. Andai personalmente a Belfast e lo convinsi a riprovare. L'impatto con Manchester per me non fu facile. Ero disorientato, confuso. Mi mancava la mia famiglia. Matt Busby è stato davvero fondamentale per me. Mi ha aiutato moltissimo. È stato una specie di secondo padre. L'esordio in First Division avviene il 14 settembre 1963 contro il West Bromwich. Per 2 mesi Best viene tenuto fuori dalla prima squadra da Busby, che non vuole bruciarne il talento. Ha evidentemente già compreso che quel ragazzo gracile, dal talento funambolico, può essere l'uomo in grado di regalargli il riscatto della terribile tragedia di Monaco di Baviera. È il 27 dicembre 1963. George Best è tornato a Belfast e sta trascorrendo le feste in famiglia. Il Manchester è impegnato nelle partite del tradizionale Tour de Force natalizio del calcio inglese. I giovani giocatori ritenuti non indispensabili vengono lasciati partire per una breve vacanza. Il 21 dicembre però i Red Devils perdono 4-1 dall'Everton in casa. Il 26 dicembre perdono 6-1 dal Burnley. Il 28 dicembre il calendario metterà nuovamente davanti Manchester United e i bianco-blu del Burnley. Improvvisamente suona il campanello al numero 16 di Barron Way, residenza dei Best. Un telegramma dal Manchester United. George deve presentarsi l'indomani mattina nella sede del club. Il ragazzo però non sembra entusiasta. Non vuole lasciare la famiglia sotto Natale senza avere la certezza di giocare. Convince quindi il padre a chiamare il club. Dall'altra parte del telefono risponde Jack Crompton, braccio destro di Matt Busby. Ci sono buone possibilità che suo figlio giochi tutta la partita, dice. E dopo il match, il ragazzo potrà tornare a casa per trascorrere in famiglia l'ultimo dell'anno. Old Trafford, Manchester, 28 dicembre 1963, ore 15. Matt Busby deve cercare il riscatto dopo le 2 batoste natalizie e capisce che è finalmente giunto il momento di mandare in campo il giovane irlandese in cui ha già riposto molte speranze. Lo schiera dal primo minuto, all'ala destra. La mattina, il Manchester Evening News affermava che Best era promettente e talentuoso, ma ancora troppo giovane per una gara così delicata. Il Manchester è guidato in campo dal grande Bobby Charlton, che rassicura Best prima del match. Il Burnley, dal canto suo, ha deciso di schierare la stessa formazione di due giorni prima, con l'arcigno difensore Alexander Elder a marcare Best. La partita inizia. Elder sembra marcare Best con un po' di sufficienza, come se non desse abbastanza credito a quel ragazzino impertinente. Si sbaglia di grosso. Passano pochi minuti e il difensore del Burnley inizia a non capirci più nulla. Il primo tempo finisce 3-0. I primi due gol sono ispirati da due cross di George Best. Il terzo viene realizzato dallo stesso giovane irlandese. Così ricorda quel match Bobby Charlton. Elder era un ottimo difensore, ma quel giorno George era velocissimo, imprendibile, sembrava volasse e lo annientò completamente. Ricordo che ad un certo punto della gara John Angus fu spostato nella zona di George a dar sostegno difensivo ad Elder, che era in enorme difficoltà su Best. Neanche in due riuscirono a fermarlo. Matt Busby gongola. George Best, quel 28 dicembre del 1963, diventa, grazie alla fiducia del suo manager, semplicemente The Best, il migliore, il predestinato. L'uomo che farà dire niente meno che a Pelé tre anni dopo: George Best è il più grande giocatore del mondo. Nasce quel giorno anche l'icona pop di George Best. Con il successo e la gloria arriveranno presto gli eccessi, le stravaganze e la lucida follia del più eccentrico, anticonformista e geniale artista della storia del calcio. Ma ora torniamo a Londra per la finale di Coppa dei Campioni da cui eravamo partiti. George Best contro Eusebio. E Matt Busby, con uno sguardo al cielo, ai suoi ragazzi scomparsi a Monaco nel 1958. Tra poco, a Destini Incrociati. In these days of cool reflection, you come to me and everything seems alright. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati raccontiamo la storia di George Best, uno dei calciatori più forti e amati della storia del calcio e dell'allenatore che ha creduto in lui e che lo ha lanciato, Matt Busby. L'incrocio dei loro destini si concretizza il 29 maggio 1968, giorno della finale di Coppa dei Campioni contro il Benfica di Eusebio. Best è già la stella del Manchester United, anche se ha solo 22 anni. Busby ripone in lui le speranze per vincere quella coppa che 10 anni prima gli era sfuggita in seguito alla terribile tragedia di Monaco, il disastro aereo in cui erano periti numerosi suoi giovani giocatori. Sono presenti 92.000 persone. Il clima è ideale, fresco e asciutto. Ad arbitrare l'italiano Concetto Lobello, che alle 20 in punto fischia il calcio d'inizio. Nel primo tempo a dominare è la tensione. Entrambe le squadre risultano contratte e bloccate, le occasioni da gol sono pochissime, anche George Best sembra poco ispirato. La prima frazione di gioco termina sullo 0-0. Ricordo che i miei ragazzi erano tesi, bloccati. Su tutti noi pesava moltissimo quello che era successo 10 anni prima. Sentivamo una responsabilità maggiore, un'emozione più forte. Poi, per fortuna, nel secondo tempo, George si sbloccò. In effetti, nel secondo tempo, Best inizia a giocare come sa e comincia a ubriacare di finte i giocatori portoghesi. Al 61esimo, un suo cross mette sulla testa di Bobby Charlton il gol dell'1-0. Wembley esplode. Got Benfica on the run now. Sadler, Charlton, a goal! He scored! Sembra fatta, ma a 10 minuti dalla fine i portoghesi pareggiano con un gol di Jaime Grassa e trascinano la partita ai supplementari. Styles hasn't got much height, but he gets them in the air. Jose Agosto. Torres, now to Grassa. Jose Agosto. Torres. And a chance. It's equalized by Grassa. I giocatori sono al centro del campo per i consueti massaggi che precedono i supplementari. George Best si isola, si concentra. sa che deve essere lui l'uomo decisivo, che i 250 milioni di persone che assistono da casa in TV alla finale, record assoluto per l'epoca, aspettano solo una sua invenzione. Iniziano i tempi supplementari. George Best ci mette 7 minuti. 7 minuti in cui attende gli avversari, studia la situazione. Poi decide che è il momento di lanciare a briglia sciolta il suo genio travolgente. È il momento di rompere gli schemi. Un'occhiata a Matt Busby, rapida, fugace, un segno di intesa. Poi il Belfast Boy ruba palla a metà campo e inizia lo slam. This is now fantastic stuff. Nessuno può fermarlo. Best scarta anche il portiere dei Lusitani e deposita la palla in rete. E il gol decisivo, quello che scioglie la resistenza del Benfica, quello che fa inchinare il grande Eusebio. Kidd e ancora Charlton fissano il risultato sul 4-1. Quando Lobello fischia, Matt Busby si scioglie in un pianto dirotto. Quella coppa che George Best gli ha regalato è in buona parte anche dei suoi ragazzi scomparsi nel freddo di Monaco. Il sogno si è finalmente realizzato. Quello che è successo dopo quella finale è un altro pezzo della storia del calcio, ma non solo. Matt Busby, raggiunto il suo obiettivo, si ritira nel 1969. Best diventa sempre più forte, sempre più famoso, sempre più ingestibile. Si susseguono tremende liti con i nuovi allenatori, burrascose avventure sentimentali, improbabili apparizioni pubbliche e mondane. E poi auto di lusso, vestiti, moda e tanto, troppo alcol. Una dipendenza prossima all'autodistruzione che lo porterà nel 1974, a soli 28 anni, a lasciare il calcio inglese. La sua ultima convocazione con la maglia dei Red Devils è datata a gennaio 74. Best è già in declino. L'alcol ha distrutto la sua forma fisica, non gioca nemmeno, resta in panchina. A fine partita imbocca il tunnel degli spogliatoi mesto, con le lacrime agli occhi e l'ombra di se stesso. The Best, il Belfast Boy che aveva infiammato la notte di Wembley 6 anni prima e si era anche aggiudicato il pallone d'oro, è solo un ricordo. George Best è scomparso il 25 novembre 2005, distrutto da problemi al fegato causati dalla sua dipendenza dall'alcol. In tutto il mondo, tifosi e ammiratori hanno pianto la scomparsa del quinto Beatle, come era stato soprannominato, il genio più ribelle che il calcio abbia mai conosciuto. Maradona Good, Pelé Better, George Best, sono soliti dire gli irlandesi. E The Belfast Boy, in punto di morte, ha tentato l'ultimo dribbling. Infatti, nei giorni della sua agonia, è apparsa una foto dell'ex calciatore provato dalla malattia, accompagnata dall'invito a non imitarlo, che egli stesso avrebbe pronunciato. Niente di più falso, sostengono fonti vicine al campione. Morendo avrebbe detto: rifarei tutto. In fin dei conti me la sono goduta, questa maledetta vita. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.